Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. La pacchia è finita per lui, non è finita per noi. La pacchia per noi non esiste. Our house is on fire, but I don't want your hope. I want you to panic. L'indigesto. Notizie e approfondimenti in salsa arancione. Le 17 e un minuto di questo martedì 25 di febbraio, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti all'Indigesto, il nostro spazio di informazione e approfondimento qui su 103.100 di Radio Città Fujiko. Non è cambiato il numero di sms, whatsapp e telegram per interagire con noi, che è sempre il 333-1809494. In questa puntata, scusateci, continuiamo a fare il punto sulla questione del coronavirus, un po' perché tutto il resto dell'informazione, come dire, è stato oscurato, e anche per il fatto che con le ordinanze regionali che bloccano ad esempio manifestazioni eccetera, viene ancora meno del materiale su cui lavorare. Comunque cercheremo di darvi delle informazioni come di consueto un po' diverse dagli allarmismi o dalle facili ironie. Parleremo di diversi temi. Se ieri vi abbiamo dato gli aggiornamenti nazionali e regionali, abbiamo parlato di speculazione sui prezzi di alcuni prodotti, vi abbiamo fatto sapere le richieste del mondo della sanità sulla protezione appunto degli operatori sanitari che in questi momenti stanno fronteggiando l'epidemia, e abbiamo parlato anche del lavoro, in particolare cosa succederà ai lavoratori e alle lavoratrici che sono costretti a stare a casa anche in virtù dell'ordinanza regionale. Oggi continueremo a darvi aggiornamenti, parleremo, vi vedremo anche dei chiarimenti medici. Abbiamo sentito un epidemiologo, Davide Gori, che appunto ci chiarisce alcuni dubbi. Parleremo dei problemi per il turismo e la cultura che appunto vengono direttamente coinvolti dall'ordinanza regionale. Abbiamo in particolare sentito da un lato l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini e dall'altro un operatore del mondo culturale, Federico Danneo, che è il presidente del Jazz Club di Ferrara. Ma parleremo anche di Patrick Zaki, quindi iniziamo già a rompere il monotema del coronavirus, perché l'Ordine dei giornalisti ha invitato colleghe e colleghi a continuare a parlare del caso dello studente arrestato in Egitto fino alla sua liberazione. E per quanto riguarda gli aggiornamenti nazionali, vi posso già dire che non cambia il numero di morti rispetto a ieri, sono 7 le persone decedute in seguito dopo aver contratto il coronavirus, e in totale sono 288 i contagiati trovati appunto dai tamponi effettuati. Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna si registrano 4 nuovi casi, quindi si va da 19 a 23, e purtroppo ci sono anche delle notizie brutte di chi specula in queste situazioni. Sono stati rubati 500 euro a una signora con il pretesto di disinfettare questi soldi. Parleremo di questo fra poco, dopo un po' di musica. Ci ascoltiamo la canzone di un trapper di origine cinese, che però è italiano, si chiama Emanuele Xu. Il brano si intitola Coronavirus, ce l'ha fatto scoprire il nostro Andrea Gozza, allora sentiamolo. Mamma, scendo a fare un giro. La gente mi guarda sì mentre cammino. Solo perché io chiamando là. Non vi preoccupate, io non vengo da Wuhan. Anche se se fosse. Guarda sì sto bene, zero febbre, zero tosse. Tu mi pare che quando mi vedi si bene una mossa. No, no. Si ostaccio, piena, ho paura di avvicinarti a me. Vorresti domandarmi tieno o coronavirus, no mio friend. Sono seduto sopra il bus, nessuno si siede accanto a me. Mamma, scendo a fare un giro, giro. La gente mi guarda sì mentre cammino. Solo perché io chiamando là. Io non vengo da Wuhan, anche se se fosse. Guarda si sto bene, zero febbre, zero tosse. Tu mi pare che quando mi vede si fa bene una mossa. No, no, si lo sa, in questi giorni nessuno va a mangiare docine. Si lo sa, in questi giorni nessuno va a cattare docine. Tutti strunzati cavanna mi sanga. Mamma, scendo a fare un giro, giro. La gente mi guarda sì mentre cammino. Solo perché io chiamando là. Non vi preoccupate, io non vengo da Wuhan. Anche se se fosse. Emanuele Xu, insomma, non è propriamente il genere che amo, però insomma segnalo questa canzone che facilmente trovate su YouTube. Allora cominciamo a entrare nel vivo di questa puntata andando ad ascoltare quelli che sono gli aggiornamenti oramai quotidiani che la regione Emilia-Romagna fa per fare il punto appunto della situazione sulla diffusione del coronavirus nella nostra regione. Oggi nuovamente l'assessore alla sanità Sergio Venturi ha incontrato i giornalisti un'oretta fa e allora sentiamo che cosa ha detto. Da 19 a 23 abbiamo 4 nuovi casi con centinaia di tamponi esaminati. I 4 nuovi casi sono: uno a Piacenza, un operatore della USL dell'ospedale che è venuto in contatto sempre con un ricoverato, una persona ricoverata e che è in isolamento a casa sua, quindi non sta male. 2 persone di Parma, uno è un ragazzo che frequentava Codogno per una scuola e quindi e poi è tornato poco prima della chiusura della zona rossa e quindi è stato in contatto con alcune persone positive al coronavirus ed è quindi a Parma. Il secondo è un'altra persona che aveva avuto contatti comunque con la zona rossa dell'Odigiano e anche questo invece, il primo è il ragazzo è a domicilio, il secondo è in ospedale nel reparto di malattie infettive. Poi abbiamo l'ultimo caso che è a Rimini, è una persona che ha più di 70 anni, che ha gli ultimi 20 giorni abbastanza movimentati con anche dei viaggi anche all'estero e che quindi sul piano epidemiologico Rimini sta ancora valutando rispetto ai contatti che può avere avuto. È ricoverato all'ospedale di Rimini con polmonite bilaterale. Segnalo che è il primo caso che noi troviamo avendo alzato la soglia. In caso di polmonite interstiziale facciamo la TAC e andiamo a cercare immediatamente se c'è la positività. Questo di tutti quelli che abbiamo fatto fino adesso è il primo caso. L'infettivologo del Sant'Orso mi ha segnalato che questa metodica che noi stiamo applicando, cioè di andare a cercare, è una metodica che probabilmente potremo portare ad esempio anche per le altre regioni, perché in questo caso la nostra aggressività ci ha consentito di trovare una patologia prima dell'ingresso in ospedale, quindi è un elemento di carattere molto positivo. Abbiamo avuto una progressione, ma una progressione per fortuna molto ridotta. Quindi noi cerchiamo sempre di lavorare al meglio, cerchiamo di fare in modo che l'infezione sia contenuta, dobbiamo analizzare bene il caso di Rimini e soprattutto sapete che siamo impegnatissimi, i nostri operatori sono impegnatissimi con coloro che hanno avuto molti contatti. Penso a quella persona positiva che è andata a ballare a Codogno e è andata a ballare in compagnia. Il ballo è una cosa che si fa molto ravvicinati, anche se si balla la salsa si balla molto vicina e quindi stiamo attentamente valutando e abbiamo già isolato tutte le persone che sono andate dalla provincia di Parma fino a Codogno il 7 di febbraio. Speriamo molto che questa data, che è il 7 di febbraio, ci aiuti ad avere un contenimento, nel senso che 7 febbraio, oggi ne abbiamo 25, sono già passate le due settimane canoniche, quindi abbiamo una finestra aperta di pochi giorni. Speriamo che in questi pochi giorni che ci ha avuto questo signore non sia stato in grado di infettare tante persone. È stata spostata l'assemblea legislativa e quindi fino al 3 di marzo l'appuntamento sarà con me, quando sarò presente naturalmente, se no avrete la fortuna di trovare anche qualche persona come la mia direttrice o come Raffaele Donini. Io sarei molto contento se nelle prossime giornate chiunque ci sarà a fare questo aggiornamento non abbia da aggiungere più di 4 persone al giorno. Vorrebbe dire che stiamo in una fase nella quale stiamo riducendo significativamente la portata del fenomeno. Segnalo che abbiamo avuto fino alle ore 14 di oggi 11.200 chiamate al numero verde che è stato attivato ieri, quindi chiedo anche ai cittadini di avere pazienza se non tutti riescono a parlare in pochi minuti, perché gli operatori sono impegnati al massimo. Segnalo anche che oltre al numero verde la cosa più eclatante di questi giorni è che valuto molto positivamente la grande risposta da parte dei cittadini a non intasare i pronto soccorsi, e qui abbiamo pronto soccorsi che in periodo ancora fiorente di influenza sono molto ridotti in termini di affluenza, e quindi questo è un elemento molto positivo per la sicurezza dei cittadini e anche per la sicurezza degli operatori. L'indigesto. Questi sono The Courteniers con The Joy of Missing Out dall'album More Again for Heaven, che ci riportano insieme alle 17:13 minuti per continuare a parlare allora di questa epidemia di coronavirus, ma per fare anche un po' di chiarezza su molti dubbi che tante e tanti hanno in questi giorni, in queste ore. E per farceli chiarire noi ci siamo rivolti a Davide Gori, che è un epidemiologo, un ricercatore dell'Università di Bologna, che ha risposto a tante nostre domande: se questo virus è da considerare come un'influenza o qualcosa di molto grave, se è vero che l'Italia è il terzo paese al mondo per diffusione del virus, e poi altri comportamenti da adottare che appunto per prevenire la diffusione. Sentiamo cosa ci ha detto. Quello che ci dicono i dati attualmente non è ancora nulla di definitivo, perché come anche la popolazione inflazione, credo sappia, anche noi stiamo attualmente studiando e stiamo vedendo come questa malattia procede. In questo momento visioni troppo pessimistiche o troppo ottimistiche da una parte o dall'altra non hanno senso di esistere. Quello che posso dire, anche sulla base di una pubblicazione recentissima che è stata fatta ufficialmente, diciamo è stata pubblicata ieri sera alle 20, che è lo studio più grosso che al momento abbiamo, che è stato condotto in Cina, ha fatto vedere sostanzialmente come ad adesso quelli che noi vediamo come zone veramente critiche e più a rischio sono le fasce delle persone anziane e di quelli già deboli, ovvero persone over 65, se così si può dire ancora anziane, perlomeno in questa società, e le persone che già hanno delle altre patologie. E infatti, come si vede anche dall'Italia, quelle che sono le persone che sono andate incontro ad esiti anche molto gravi o addirittura alla morte sono queste fasce di popolazione qui e queste persone con queste caratteristiche. Sempre sulla stampa si legge che l'Italia è il terzo paese al mondo per diffusione di virus. Come possiamo spiegarlo? Qui c'è un problema semantico fondamentale, ovvero parlare di diffusione. In questo momento non lo sappiamo se è il terzo paese per diffusione, diciamo che siamo il terzo paese per quello che riguarda la rilevazione, in qualche modo l'identificazione dei casi. Questo grosso aumento che noi abbiamo visto fondamentalmente è stato dettato dalle procedure, diciamo, che noi come Stato stiamo facendo per la rilevazione, diciamo, del coronavirus tramite i tamponi, e questo per forza di cose ha causato un aumento dei casi di positività. Questo in realtà non ci dice nulla di ciò che riguarda, come dire, la potenziale diffusione anche e soprattutto nei confronti di quelli che sono altri paesi o quelli con cui di solito magari si tende a fare il confronto come la Francia o come la Germania. A proposito di semantica, è anche opportuno, come dire, dire se si muore di coronavirus o con il coronavirus. Certamente, infatti questa è una cosa abbastanza importante da dire e da sottolineare, ovvero sia che la positività al coronavirus, a differenza di come magari qualcuno pensa, cioè anche essere identificati da un tampone faringeo come positivi al coronavirus, non significa, se mi passa un termine, una metafora, una condanna a morte. Significa la positività e la presenza di questo virus. E la dimostrazione di questo, del fatto che il virus possa anche coesistere, ma possa non essere poi alle volte la causa di morte, come è in realtà nella gran parte dei casi, perché quello che fa vedere anche OMS è che in più del 90% dei casi l'infezione è transiente e fondamentalmente si va a concludere nel giro di qualche giorno, come fondamentalmente quella che può essere una sindrome simile influenzale, questo specialmente nella gran parte, diciamo, delle persone sotto i 50, i 60 anni, e addirittura, come dire, anche in persone che purtroppo, diciamo, i nostri casi, quelli che abbiamo visto sul nostro territorio nazionale, che hanno avuto, come dire, degli esiti infausti, in realtà su di loro sono persone che sono morte con la positività al coronavirus, ma non è che sono morte per una causa principale che era effettivamente ascrivibile solo al coronavirus. Diciamo che il coronavirus può essere stata una concausa e che può avere in parte aggravato un quadro clinico che però aveva già delle sue criticità. Un'ultima domanda riguarda i comportamenti. Sappiamo che l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso anche un decalogo. E che cosa si sentirebbe di consigliare a chi ci ascolta? Il decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità è un decalogo molto giusto e che va a riassumere in poche parole quelle che sono i comportamenti più adeguati da adottare. Come anch'io, come cittadino, indipendentemente dal mio lavoro di ricerca qui in università, in questi giorni ho notato, diciamo, una serie di comportamenti particolari, diciamo, anche dal punto di vista delle persone, per quello che riguarda, diciamo, l'accaparramento di cibo oppure, come dire, di presidi sanitari o di presidi igienizzanti come la mucchina. Io quello che mi sento di dire è: la cosa importante è mantenere la calma, seguire il decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità, ricordandosi capirci bene che non è, tra virgolette, la mucchina che ci salva, nel senso che la cosa più importante è molto spesso lavarsi le mani, ricordarsi di lavarsi le mani, perché mettersi la mucchina gel su delle mani sporche non è assolutamente efficace. Le mani vanno lavate con acqua e sapone, e poi magari l'igiene può essere mantenuta con la mucchina. Utilizzare le maschere, le mascherine protettive, laddove non si sia infetti, in realtà non aumenta tantissimo, non aumenta, potremmo dire, quasi per nulla la protezione nei confronti di qualcuno che possa essere potenzialmente contagiato vicino a voi. Quindi anche andarsi ad accaparrare centinaia di mascherine in giro per le farmacie non ha un significato da un punto di vista igienistico. Tutte le altre cose che ci sono scritte sul decalogo, seguitele. Se siete in pubblico, evitate di starnutire addosso alle altre persone, starnutite nel gomito, evitate di tossire, come dire, apertamente, in maniera da cercare di ridurre quanto più la contaminazione. Quelli che sono le buone norme igieniche che sono scritte sul decalogo sono buone norme igieniche che tutti noi comunque dovremmo seguire sempre e comunque nei confronti del coronavirus, come anche nei confronti di tutte le altre malattie infettive, come anche l'influenza, in altri anni in cui magari non ci sarà più, come noi ci auspichiamo, questa problematica del coronavirus. L'indigesto. Face con Success ci riporta insieme 17:23 minuti per parlare ora di turismo, perché ovviamente il pensiero, visto un po' quello che sta succedendo, visto le ordinanze, ma non solo, viene appunto per questo settore. Ad esempio, nelle ultime giornate abbiamo registrato una città di Venezia con un 40% di disdette per il turismo legato al carnevale, e poi abbiamo visto paesi come Israele, Irlanda, Grecia e Croazia che hanno annullato le visite scolastiche e sconsigliato i viaggi in Italia. Questo è un problema, e poi a questo si aggiungono le ordinanze regionali che nella nostra regione hanno portato all'annullamento di tanti eventi anche fieristici che portano pubblico, portano turisti. E allora ci siamo domandati come il turismo sta cercando di reagire a questa situazione, e soprattutto se sopporterà la botta. Per farlo abbiamo raggiunto l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, sentiamo cosa ci ha detto. Diciamo che la situazione è una situazione ovviamente molto complicata e quindi la preoccupazione degli operatori turistici, della filiera turistica regionale è naturalmente anche la nostra e la mia in particolare, che ho la delega appunto al turismo e quindi in prima persona seguo da qualche anno questo settore regionale. Naturalmente noi abbiamo costituito una unità di crisi, una cabina di regia con gli operatori turistici, con i comuni turistici della nostra regione, dove monitoriamo costantemente la situazione. Naturalmente in questo momento tutta la regione, ma quando dico regione intendo naturalmente tutti i livelli istituzionali e operativi, sono impegnati per contrastare il più efficacemente possibile la diffusione del coronavirus e quindi questo in questo momento è la nostra priorità assoluta. Naturalmente i danni economici sono danni che già ad oggi sono rilevanti dal punto di vista delle perdite economiche del settore turistico. Non facciamoci la testa. Dobbiamo avere la consapevolezza appunto che il danno è un danno importante, significativo, e ora però, ripeto, dobbiamo cercare di contenere il più possibile il virus e cercare di, quando sarà il momento, di ripartire, di rilanciare l'offerta turistica della nostra regione. Naturalmente metteremo in campo misure di sostegno, stiamo in questi giorni appunto costruendo una serie di ipotesi e di richieste che faremo anche al governo rispetto ad aiuti specifici di settore alle imprese colpite appunto dalle disdette in particolare che ci sono state nel settore turistico regionale, dalle fiere ai congressi, ai meeting, ai grandi eventi. Il nostro impegno, il nostro lavoro è finalizzato appunto in questa direzione. Vedremo, diciamo, nelle prossime settimane lo sviluppo e la diffusione del coronavirus. Naturalmente siamo in costante contatto diretto con le associazioni albergatori, con le imprese del comparto per monitorare costantemente la situazione, per come dire rassicurare anche gli operatori che stiamo facendo tutto il possibile, soprattutto dal punto di vista della predisposizione di una serie di misure di sostegno. Ecco, lei diceva i danni ci sono già, c'è anche qualche stima? Ma no, adesso stime economiche no, abbiamo dato mandato al nostro osservatorio turistico regionale che è in capo ad Unioncamere appunto di fare una stima da qui a maggio, diciamo, dei danni economici legati alle fiere che sono saltate, quelle che probabilmente purtroppo dovranno saltare anche durante i mesi di probabilmente anche di aprile, però insomma vediamo, ecco, l'evoluzione dell'epidemia per capire appunto questo danno per quanto tempo si ripercuoterà sulla filiera turistica regionale. Ma abbiamo dato mandato appunto a Unioncamere di fare una stima che perlomeno possa fare un conteggio da qui ai prossimi 3 o 4 mesi. Questa ci servirà naturalmente per valutare l'impatto economico negativo del coronavirus e di avere appunto uno strumento anche di carattere numerico di merito per poter avanzare delle richieste anche nei confronti del governo per una serie di aiuti alle imprese colpite. Il turismo in questi anni in Emilia Romagna è cresciuto molto, anche nelle città d'arte, è un settore che rimane importante in regione? Un settore fondamentale, un settore cruciale, e purtroppo questa epidemia colpisce prevalentemente, non solo, ma direi prevalentemente il settore turistico, perché è un fenomeno che purtroppo colpisce le persone che si spostano e quindi il turismo è fatto di spostamenti, è fatto di accoglienze, fatto di persone che si muovono da una località di residenza a una località di vacanze, quindi è innegabile che il coronavirus sta colpendo prevalentemente il settore turistico di tutta Italia, devo dire naturalmente non solo della nostra regione. Il turismo è e sarà sempre un settore fondamentale di sviluppo della nostra regione, lo sarà a maggior ragione dopo che sarà passata questa epidemia che ovviamente non ci voleva, ci ha colpito proprio in un momento di grande crescita del turismo regionale, ma come sempre abbiamo fatto anche in presenza di fenomeni ancora più dolorosi e più tragici di questo, sapremo naturalmente mettere in campo tutte le contromisure e rilanciare con ancora più forza la promozione turistica, l'immagine, l'attrattività e l'appeal della nostra regione. L'indigesto. torniamo insieme all'Indigesto. Sono le 17.34, questa è la seconda parte. Quelli che ascoltiamo in sottofondo è Cerrone con Resolution. A me ricorda sempre una canzone di Elio De Storie Tese che lo evocava come merce di scambio. Era il pipero, se non sbaglio. 333-180-9494 è il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi. Continuiamo a parlare allora degli effetti che la gestione del coronavirus sta producendo, in particolare per quanto riguarda adesso la cultura. Abbiamo parlato di turismo, parliamo di cultura, perché come sapete l'ordinanza regionale ha annullato tutta una serie di manifestazioni dove appunto era prevedibile avere una grossa concentrazione di persone proprio per ridurre i contagi, ma questo ovviamente ha un impatto sugli organizzatori, sui lavoratori anche del settore culturale. Tra questi ne abbiamo scelto uno con cui collaboriamo, è il Jazz Club di Ferrara. Il nostro William Piana ha intervistato Federico Danneo, che è il presidente del Jazz Club di Ferrara. Allora sentiamo le sue parole. Sapete che è stata emessa questa ordinanza dalla regione che limita e sospende le attività anche culturali proprio per evitare aggregazioni con più persone che possono insomma essere possono trasmettere insomma questo virus, e quindi per motivi precauzionali insomma anche noi del Jazz Club ci adeguiamo e quindi insomma abbiamo dovuto sospendere questa nostra settimana di concerti. Sin da lunedì abbiamo dovuto sospendere il concerto di Rope, The Music of Charlie Haden con Fabrizio Puglisi, e ci tocca ahimè anche sospendere a data da destinarsi insomma anche il concerto di sabato dove veniva Craig Tamborn, ed è naturalmente un main concert, come si dice insomma. Però sospendere vuol dire che non è che non torneremo sui nostri passi, quindi abbiamo già insomma preso accordi per vedere di poterlo fare tornare e poter recuperare il concerto di lunedì in un'altra serata, insomma diciamo speriamo dal 2 marzo che siamo già operativi, noi siamo pronti, ecco, poi vediamo che cosa succede. Navighiamo a vista, ecco. Per attenersi alle misure precauzionali. Tutto questo. Oltre che a uno spostamento di date, immagino abbia creato un disagio non da poco proprio a livello organizzativo, importante. Assolutamente sì, perché naturalmente noi viviamo anche proprio di questi momenti, questa è la nostra attività principale, quindi fermarci insomma ci ha dato diverse problematiche. Poi ci sono i contratti da rispettare, le clausole da limare, insomma, quindi quando succedono queste cose ovviamente oltre al problema della musica c'è anche il backstage che è quello insomma delle clausole da rispettare, ma insomma ci siamo riusciti, perché insomma sono tutti musicisti che hanno compreso che insomma non potevamo assolutamente insomma fare queste due partecipazioni per motivi di causa maggiore, come si dice. Certo. Siamo speranzosi, noi siamo pronti già dal 2 marzo. Sì, assolutamente, certo, assolutamente. Questo in questo periodo apparentemente di ferma, immagino che per il Torrione, ma anche per altri luoghi di aggregazione per la musica, sia destinato alla riorganizzazione, quindi. Certo. Vabbè, noi il nostro programma ce l'abbiamo già pronto, quindi diciamo i nostri concerti continuano secondo l'attività e secondo la programmazione già svolta, già indicata. Poi ovviamente cercheremo di recuperare questi due concerti in un'altra data e probabilmente insomma li inseriremo, speriamo, nella stessa stagione e nelle date in cui sono insomma ci sono le giornate libere, ecco. Quindi insomma questo è quello che vogliamo fare. Ma questo è un discorso che vale un po' per tutta Italia, perché anche altri musicisti, anche la Tower, che doveva la Tower Jazz Concert Rocker, doveva andare ad Ancona, e anche loro insomma si sono dovuti fermare e quindi si sposterà il loro concerto in un'altra giornata. Siamo tutti nella stessa barca. Certo, e si naviga appunto attenendosi a tutto ciò. Esatto. Com'è l'umore della truppa? Ma l'umore, insomma, siamo stati un po' abbacchiati da questa cosa, perché poi ci è capitata a far capo e collo domenica, quindi io ero collegato alla conferenza stampa dell'assessore alla sanità che ci raccontava lo sviluppo di questa ordinanza, e quindi sono cominciate ad arrivare le telefonate, ma ci siamo, noi siamo dentro, siamo fuori, insomma, e poi effettivamente io che faccio anche l'avvocato nella vita ho dovuto, insomma, esaminare l'ordinanza nello specifico, ed effettivamente, insomma, noi, anche se siamo un circolo, siamo comunque un luogo di aggregazione. Però, insomma, vabbè, insomma, passato il primo momento, siamo pronti, siamo carichi come sempre e con ottimismo di poter ricominciare al più presto la nostra attività, insomma, soprattutto per quelli che vengono da lontano, perché siamo contenti che venga gente oltre Ferrara. L'indigesto. Sulle note di Charlie Parken con Oprivav ci torniamo insieme qui all'Indigesto. I più attenti e le più attente di voi si saranno accorti che negli ultimi due giorni non c'è Last Minute, l'agenda degli appuntamenti culturali, banalmente per il fatto che gli appuntamenti culturali sono stati cancellati proprio dall'ordinanza regionale. Però c'è un ulteriore problema che il coronavirus può provocare in questa sbornia, come dire, anche informativa, in questo overbooking. Oltre al panico che abbiamo visto tangibile nei supermercati, è l'oscuramento di tante altre notizie su cui invece è importante continuare a parlare, come ad esempio la detenzione di Patrick Zaki, lo studente del master dall'Università di Bologna in Gender Studies, che è stato arrestato in Egitto. Sabato scorso, come sappiamo, c'è stata un'udienza per decidere la sua sorte e le autorità egiziane hanno deciso per altri 15 giorni di carcerazione, e oggi l'ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna ha invitato colleghe e colleghi a continuare a tenere alta l'attenzione, a parlare appunto della sua vicenda fino a che non sarà liberato. Noi abbiamo raccolto questo appello e ad esempio abbiamo intervistato Giovanni Rossi, che è il presidente dell'ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna. Sentiamo che cosa ci ha detto. Tanto ci rendiamo conto che in questo momento tutta l'attenzione della stampa, e quando parlo di stampa parlo di tutti i mezzi a prescindere dalla piattaforma tecnologica che viene usata per veicolare l'informazione, è ovviamente concentrato sul coronavirus e sulla vicenda del contagio. Però non esiste solo quella notizia e soprattutto temiamo che con il passare del tempo, come spesso succede e succede appunto anche su vicende drammatiche, l'attenzione alla vicenda di Patrick Zaki vada scemando e quindi questa cosa, come dire, malgrado la solidarietà non diminuisca, possa danneggiare la battaglia per ottenere la sua liberazione. Il fatto che la stampa, l'informazione in generale, mantenga alta l'attenzione, dia informazione su questa vicenda, è utile ai fini della battaglia per ottenerne la scarcerazione e quindi per far sì anche che le istituzioni a livello nazionale come internazionale continuino a muoversi per premere sul regime egiziano a questo fine. Lavoro anche di giornaliste e giornalisti dell'Emilia Romagna esercita una sorta di pressione sul governo egiziano? Certo, io ritengo che quando l'informazione tratta un argomento e ne tiene alta l'attenzione nell'opinione pubblica, questo sia sempre utile e soprattutto certi regimi, certo tipo di governo temano il fatto che l'opinione pubblica continui a tenerli sotto la lente dell'attenzione, perché vorrebbero ovviamente che ci fosse l'oblio sui loro atti e sulle cose che vengono fatte, come questa persecuzione che colpisse in questo caso Zaki, ma non solo lui. Sappiamo che la vicenda di Zaki è analoga a quella di tanti egiziani, ad esempio, che vengono arrestati, di cui non si sa nulla, e che scompaiono per le strade delle città egiziane perché vengono arrestati dai servizi di sicurezza del regime. È necessario parlarne. Insomma. Lei prima ha evocato il coronavirus, sappiamo che c'è un'ordinanza che sospende tutte le manifestazioni, anche insomma che prevedono un'alta concentrazione di persone, però l'Ordine dei giornalisti ha detto che aderirà a tutte le iniziative. Certo, io spero che intanto l'emergenza e le limitazioni che sono conseguenti alla diffusione del coronavirus cessino il più rapidamente possibile, e questo è l'auspicio che fanno tutti, e quindi si possa riprendere anche a manifestare. In qualche misura il nostro appello è anche quello di sostituire le manifestazioni e le iniziative, diciamo, di massa, che in questo momento non si possono fare, con un'adeguata attenzione della informazione. Quindi se non c'è la possibilità di andare in piazza, di manifestare, di concentrare il più alto numero di persone possibile su questo obiettivo, beh, intanto continuiamo a parlarne, a fare iniziative, ad approfondire il tema, a tenerlo appunto illuminato, che è l'espressione che abbiamo usato e che ci sembra la più adatta per questo obiettivo. L'indigesto. E sulle note del vecchietto del rock Ozzy Osbourne con Straight to Hell, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata dell'Indigesto, che torna domani alle 17 come di consueto. Io vi ricordo che sul sito radiocittafugico.it sono disponibili le interviste che avete ascoltato in questa puntata. Potete seguirci anche sui social, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e YouTube. Fra poco non ci sarà Last Minute, ma credo che ci sia Mashup, e quindi rimanete sintonizzate e sintonizzati e passate una buona serata. Ciao a tutti e a tutti. Please.